America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Berlusconi has money and power, or has this been allowed to continue because it's Italy? In part it is Italy. The fact is that, as we were saying before, Italy at a certain point came out from a situation in which it had been for decades under two heels that was pushing down the country, the Communist Church and the Catholic Church. Avete sentito la mia voce in inglese? Sono stato invitato a un programma televisivo che si chiama Charlie Rose e un talk show. Avete sentito proprio lui, Charlie Rose, che mi faceva una domanda sulla questione che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo su quello che sta capitando da noi con lo scandalo di Ruby, che questa è una delle domande che gli americani fanno più spesso. Dice: ma come mai in un contesto di scandali l'Italia continua a votare Berlusconi? Difficilissimo dare delle spiegazioni, perché la cultura del nostro paese ovviamente noi la conosciamo e sappiamo darci molte spiegazioni di certe situazioni. All'estero questo lo si conosce molto meno. Non c'ero soltanto io in questo programma, c'era anche il mio collega del Sole 24 Ore, Claudio Gatti. If you consider what is behind, I mean, this is as if Bill Gates had decided to transform Microsoft into a political party. He also owns CBS, NBC and ABC. He controlled as a prime minister the editor of PBS. He owned Time Warner, Lowe's Theaters, Fidelity Fund. I mean, this is Citizen Kane, George Steinbrenner and Warren Buffett fused into one person. Ecco, Claudio in questo caso spiega come mai Berlusconi è riuscito ad accumulare una grandissima ricchezza da una parte, ma anche a esercitare poi un potere politico. L'accumulazione del potere politico con il controllo dei media gli ha dato un potere che in qualche modo lo ha reso, gli ha dato l'idea di essere, secondo Claudio, di essere onnipotente. He comes from completely out of politics and he forms a party that is not a party, it's a company. And this is the coup de grace. And the name is a soccer cheer. Forza Italia. Go Italy. What every Italian shouts at summer on Sundays. Anna Guaita, la corrispondente del Messaggero da New York, anche lei, eravamo in tre in questo talk show con Charlie Rose. Anna racconta quando nasce Forza Italia, questa idea di creare lo spirito di una squadra di calcio, come certi aspetti culturali che erano legati a tradizioni diverse, legate ai partiti, cambiano con l'arrivo di Berlusconi. Perché vi ho fatto sentire questi estratti? Perché in questi giorni si sta parlando dell'Italia come normalmente non si parla e come normalmente, per quel che mi ricordo, non è mai successo prima. Soltanto in questa ultima settimana ci sono stati numerosi talk show televisivi che hanno affrontato la questione. Sentiamo per esempio questo, The View. Yeah, welcome, yeah, hello, hello, welcome to The View. La voce l'avete riconosciuta subito, è la voce di Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg è una delle ospiti di questo programma televisivo dell'ABC che si tiene al mattino, un programma nazionale di straordinario successo, ci sono decine di milioni di spettatori, c'è Whoopi Goldberg, ci sono altre signore che intrattengono il pubblico, tra cui Barbara Walters, la leggendaria giornalista televisiva americana. Ecco, in questo caso si parlava non più di Berlusconi, ma si parlava di un altro caso che è in Italia e che interessa straordinariamente l'America, il caso di Amanda Knox. Amanda Knox's real parents in Italy have spoken to a British newspaper and said that the Italian government and police mistreated Amanda. Now the Italian government is indicting the parents for saying that. Mm-hmm. It's such a crazy story, and only in Italy could this happen. E questa è proprio la voce di Barbara Walters, una delle più importanti giornaliste televisive americana, che dice: i genitori di Amanda Knox hanno dichiarato a un giornale britannico che la polizia italiana ha maltrattato Amanda e adesso il governo italiano sta accusando i genitori per aver dichiarato una cosa simile. È una storia talmente assurda, dice Barbara Walters, che solo in Italia potrebbe succedere il tono, l'atteggiamento nei confronti del nostro paese da più parti in America sta prendendo una connotazione, devo dire, che certamente non è gradevole. Sentiamo cos'ha da dire in più l'attrice Marika Guy Harden, perché fra poco uscirà il film su Amanda Knox. Andrà in onda il 21 di febbraio su Lifetime, Amanda Knox Murder on Trial in Italy, dove di nuovo l'immagine per noi non sarà molto positiva. Sentiamo Marika Guy Harden. And our system is innocent until proven guilty, and that is not the system over there. No. It is guilty, and that is the, it's not a, we just slander to say that it is their system. You're guilty until proven innocent. Noi americani, dice Marika Guy Harden, abbiamo un sistema secondo il quale si è innocenti fino a quando non si venga dichiarati colpevoli. Laggiù in Italia non c'è lo stesso sistema. In Italia si è colpevoli fino a che non si viene dichiarati innocenti. E questo è difficile da capire per un americano. Incompressioni, gap culturali, insomma, ci accorgiamo che l'Atlantico forse è un po' più largo di quello che possiamo immaginare quando cominciano ad esserci dei casi molto difficili in cui le emozioni si scatenano. Anna Guaita è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Anna. Buongiorno. Allora Anna, io e te siamo stati insieme a Claudio ieri sera al programma di Charlie Rose. Siamo giornalisti italiani che debbono raccontare l'America al nostro paese, ma in questo caso mi sembra che ci troviamo sempre più a dover raccontare invece l'Italia agli americani. Ti senti in questa situazione? Assolutamente sì. È un fenomeno anche molto nuovo per me, perché in genere per l'Italia ti chiedono, sai, così, l'Italia, il posto delle vacanze, il paese tanto amato, eccetera, eccetera. È da poche settimane che è diventato invece un tema proprio ossessivo di conversazione, e non sto parlando solo di persone che leggono i giornali, che guardano la televisione. Il portiere di casa mia ogni mattina mi chiede se ci sono novità su Berlusconi. Il tassista appena ti sa che sei italiano, col suo inglese molto frammentario, ti chiede Berlusconi. Com'è andata secondo te questa nostra trasmissione di ieri? Pensi che siamo riusciti a dare un'idea di quello che sta capitando, a spiegare, insomma, anche a eliminare quelli che possono essere certi sospetti? Avevamo Charlie Rose, che è una persona informata. Secondo te era informato abbastanza o no? Non mi è sembrato tanto. Mi è sembrato molto divertito, e questa è la cosa che mi stupisce, perché la gente è divertita da questa cosa, incredula, ma non riesce molto a vedere dietro, appunto, come hai detto tu, anche tutti i giochi politici che ci sono. Tutti si chiedono, ma perché ancora al potere? Ma com'è che non c'è un'alternativa? Qual è la tua sensazione su questa posizione americana nei confronti dell'Italia? Qui è forse un po' retrograda, un po' campanilista? Ma perché quando si tratta di giustizia, quando si tratta di un tuo concittadino che è in prigione all'estero, in un paese lontano, scatta sempre una solidarietà, più o meno, perché sono le corde più profonde della tua identità nazionale che vengono scosse. Noi italiani siamo solidali con gli italiani in prigione all'estero, magari qualche volta erroneamente. Gli americani sono solidali con questa ragazza, magari erroneamente, ma è istintivo, è una cosa istintiva, non è che è anti-italiana, è più in difesa di Amanda che contro gli italiani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno degli Arcade Fire, The Suburb. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.